Letture di Radio 24. Dal 1976 Livio Togni è alla guida dell'omonimo circo, una tradizione familiare portata avanti da 5 generazioni. In un'intervista pubblicata sull'ultimo numero della rivista Studio, il figlio di Darix Togni si racconta, parla dei suoi progetti, del suo impegno politico e delle battaglie con gli animalisti. Ogni imperatore ha il suo rosso, Valentino il suo, Livio Togni pure. È un rosso metallico mischiato al giallo fluorescente e lui, ex senatore, potrebbe essere uno dei pochi imperatori rimasti. Le bestie da show ce le ha, il titolo di domatore anche, quindi gli spetta di poter istituzionalizzare anche il rosso circense. Il rosso, quello che si sposta in carrozzoni, ormai più che altro container di latta, spesso imbarcati su navi. I colori, fosforescente e sfarzosa presenza del circo nel mondo, sono da sempre riassunti immediati delle locandine cult del circo Togni. Livio Togni è il figlio del celebre Darix, mitologico domatore di belve che sembrava uscito da un set di Spartacus e che ha lasciato al figlio il vizio di entrare nella gabbia con le tigri. È stato il dono più bello che potesse farmi, è per questo che io con i miei figli ho fatto la stessa cosa, regalargli un'emozione fortissima, dice. Se ho paura per loro? Certo. Ma sarebbe più incosciente non regalargli il lusso di rischiare, di godersi qualcosa del genere. Vale più di ogni rischio. Non bisogna essere attaccati a nulla. Neanche alla vita? Mi sorride. Mi sta dicendo di no. La vita del circo Togni ha attraversato lustri migliori, quelli iconici appunto, fatti di locandine e neon, kitsch, invasive. Nel quartier generale, a pochi chilometri da Correggio, il circo Togni è a mezzo regime. Metà delle carovane sono partite, l'altra è in arrivo dall'est. Prossimo rientro e spostamento sarà quello di Milano, dove cerchiamo sempre di passare del tempo, anche se noi circensi abbiamo le ruote nel cervello. Io a Milano ci sono cresciuto, al Collegio San Carlo. Il circo lo amo perché facciamo viaggiare chi non può, continua Livio Togni. Portare animali esotici in paesi come l'Iran, per esempio, è stato un rischio enorme. Eppure quando abbiamo aperto quella porta, ho riscoperto il piacere di stupire, di regalare qualcosa di mai visto, come il circo tradizionale che in Iran non era mai arrivato. Un divertissement tutto all'italiana, che però a volte infastidisce, anche quando riesce a stuzzicare l'economia e le abitudini del luogo in cui si trova tanto da essere poi copiato. Come l'exploit delle compagnie circensi francesi dopo aver visto il circo italiano dei Togni. Siamo stati vittima del nostro stesso successo. Alla fine davamo fastidio, abbiamo cercato altri scenari. Il nostro è un circo ingenuo. Chi va ancora al circo in Italia? Non ci bastano i reality? Ride. L'ha notato anche lei. Non credo sia vero del tutto. Comunque, abbiamo il nostro DNA, nasciamo qui. È nella nostra tradizione culturale praticare e frequentare il circo. Mentre parliamo, nel container ufficio c'è il veterinario che aspetta calmo e tranquillo, quasi fosse lui in coda per essere visitato dal gran visir del circo. Se gli animalisti hanno boicottato il circo in Italia, certo, ci hanno criminalizzato, accusando non solo noi, ma soprattutto chi va al circo, definendoli assassini. Ma le chiedo, come fa a dire che quella tigre è infelice? Parla? Comunica? Chi decide in maniera oggettiva che questa tigre è triste o felice? Il domatore deve per forza amare queste bestie perché ci vive costantemente insieme. C'è un piccolo canguro rimasto in un recinto isolato, a fianco una tigre enorme che si aggira in un loft di lamiera. Un ragazzo con la t-shirt dei Green Day sta pulendo le gabbie del leone che sonnecchia e quella delle tigri più piccole. In fondo, in un recinto che, visto le campagne attorno, potrebbe essere quello di un ranch nell'Idaho, ci sono due zebre esteticamente perfette. Le zebre, la campagna emiliana, un inserviente che pulisce la carrozza toilette, il circo fermo. Magico? No. La magia non c'è più. C'è l'allenamento, la produzione di uno spettacolo che in Italia generazioni intere non hanno mai visto, perché da anni il circo è diventato quello di buttafuoco, sinistro, in errore, niente più sconti alla carrozzone di Renato Zero. Livio Togni continua. Ricordo le prime volte in cui ho visto Amarcord, come i film di Don Camillo. Come si fa a non amare una cosa del genere? Le mie figlie non lo guardano neanche a morire. Io invece vorrei farglieli vedere. Li guarderei ogni volta. Un abitudinario tradizionalista? Temo di no, risponde. Anche se poi, per sfuggire alla prigione di una casa stabile, sono schiavo del muovermi. E la mia prigione diventa la mia testa. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Manuela Ravasio, Filosofia Togni, dal numero 5, novembre-dicembre 2011, della rivista Studio. Nella versione narrata da Apuleio all'interno delle sue Metamorfosi, la favola di Amore e Psiche racconta la storia di una bellissima fanciulla che, per riconquistare il suo amante, deve sottoporsi a una serie di durissime prove. Nel corso dei secoli, la storia è stata tramandata oralmente in ogni parte del mondo, dando origine a una lunga serie di varianti sul tema. Ora, un libro raccoglie 19 versioni di quella che è considerata la più antica storia d'amore del mondo. In quella della regione indiana del Punjab, ad esempio, Amore e Psiche si chiamano rispettivamente Pururavas e Urvashi. La ninfa Urvashi amava Pururavas, figlio di Idda, quando si unì a lui, ella gli disse: «Tre volte al giorno mi colpirai col tuo membro, ma non giacerai con me se non lo desidero e non lascerai che io ti veda nudo. Queste sono le usanze di noi donne». Lei visse insieme a lui per un lungo tempo e da lui fu fecondata. Così a lungo avevano vissuto insieme. In seguito i Gandharva si dissero l'un l'altro: «Da troppo tempo la ninfa Urvashi vive tra gli uomini. Dobbiamo far sì che torni». Ora una pecora e due agnellini erano legati al suo giaciglio. I Gandharva rubarono uno degli agnelli. «Ahimè», lei disse, «portano via il mio figliolo come in un luogo senza eroi e senza uomini». Essi portarono via anche il secondo agnello e Urvashi parlò nello stesso modo. Pururavas allora pensò tra sé: «Come può essere senza eroi e senza uomini il luogo dove io vivo?» E nudo com'era, balzò in piedi e li rincorse. Troppo tempo, egli pensò, occorreva per indossare i vestiti. In quel momento i Gandharva provocarono un lampo. Lei lo vide nudo come fosse giorno e scomparve. «Sono tornato», egli disse poi. Ma ahimè, Urvashi era svanita. Lamentandosi per lo sconforto, Pururavas prese a vagare per tutto il Kurukshetra. Giunse a un lago con dei fiori di loto. Egli camminava lungo le sue sponde e lì nuotavano le ninfe in sembianze di cigni. Urvashi lo riconobbe e disse: «Questo è l'uomo insieme a cui io ho vissuto». Le ninfe dissero: «Appariamo a lui». «E sia», rispose lei, e comparvero a lui. Pururavas la riconobbe e la implorò: «Orsù, o donna, ma fermati, crudele, scambiamoci parole con il cuore. Se questi nostri pensieri restano inespressi, non ci porteranno una grande gioia che possa durare fino a un giorno lontano». Questo è ciò che lui le disse. Lei rispose: «Perché dovrei scambiare parole con te? Sono andata via come la prima fra le aurore. O Pururavas, tornatene a casa. Io ormai sono per te irraggiungibile come il vento. Tu non hai fatto ciò che io ti avevo detto. Ora sono difficile da prendere per te. Tornatene a casa». Questo è ciò che lei gli disse. Egli disse allora tristemente: «Colui che così bene faceva l'amore con te possa oggi partire senza fare più ritorno, per andare nella più lontana delle lontananze. Giaccia quindi nel grembo della distruzione e lo divorino i lupi feroci». Questo è ciò che lui disse. E lei rispose: «Pururavas, non morire, non andartene via, non ti divorino i lupi malvagi. È proprio vero, non esistono amicizie con le donne, di iena sono i loro cuori. Non ci badare, non c'è amicizia con le donne, ritorna a casa». Questo è ciò che lei gli disse. «Quando sotto un'altra forma vivevo tra i mortali, passai le notti con te per 4 anni. Mi cibavo una volta al giorno di una goccia di burro fuso e ora ne sono ancora sazia». Questa fu la replica alle parole di lui, consistente in 15 versi. Essi pronunciarono molti versi. Alla fine Pururavas toccò il suo cuore e lei disse: «Torna qui l'ultima notte del prossimo anno. Potrai giacere con me per una notte e allora tuo figlio sarà nato». Egli ritornò l'ultima notte dell'anno ed ecco, lì sorgeva un palazzo dorato. Gli dissero solo questa parola: «Entra». Poi invitarono lei ad andare da lui. Poi lei disse: Domani mattina i Gandharva ti concederanno un beneficio e tu dovrai fare una scelta. Egli disse, scegli tu per me. Ella rispose, devi dire, fate che io sia uno di voi. Al mattino i Gandharva gli concessero un beneficio ed egli disse, fate che io sia uno di voi. Essi dissero, certamente, non c'è tra gli uomini il fuoco sacro. Se un uomo offrisse quel fuoco agli dèi, egli diverrebbe uno di noi. Posero poi del fuoco dentro una ciotola e glielo dettero dicendo, offri questo fuoco agli dèi e diventerai uno di noi. Egli lo prese e andò con suo figlio verso casa. Poi lasciò il fuoco nella foresta e solo con il ragazzo andò al villaggio pensando, tornerò, ma ahimè. Quando ritornò, ecco che il fuoco era sparito. Ciò che era stato il fuoco era diventato un albero di fico e ciò che era stata la ciotola era divenuta un albero di mimosa. Egli allora tornò dai Gandharva. Essi dissero, cuoci per un intero anno una quantità di riso sufficiente per 4 persone e prendi ogni volta 3 ciocchi da questo albero di fico, ungili con del burro e mettili sul fuoco recitando dei versi che contengano le parole ciocco di legno e burro. Il fuoco che ne risulterà sarà proprio quello richiesto. Essi dissero, ricava un legnetto dall'albero di fico, sfregalo sopra un legnetto ricavato dall'albero di mimosa. Il fuoco che ne risulterà sarà proprio quello richiesto. Avete ascoltato la lettura del racconto Urvashie Pururavas dal libro Storie di amore e psiche a cura di Anna Maria Zesi. L'Asino d'Oro Edizioni, 226 pagine, 25 euro.